da solo. E si può estrarre il cuore anche al più nero assassino. Ma è più difficile cambiare un'idea. Yeah. Il mio sogno è un taglione. Voglio che sia più reale. Potrei stare ore ed ore a parlare al silenzio, ma è più difficile cambiare un'idea. Ma il sogno traveste di luce ogni cosa vivente e non toglie la paura. Acido. E dimmi se no.